Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Valeria Bernardi in regia e Berlusconi che questa mattina ha detto, come anticipato prima nel giornale radio, poi lo ascolteremo anche il presidente del Milan e del Consiglio. Difficile impedire l'addio di Kakà, non si può rifiutare un'offerta così. Questa sera ore 20:30 dovrebbe essere l'ultima partita a San Siro di Kakà con la maglia numero 22 del Milan, in attesa di volare tra le braccia degli sceicchi che hanno la proprietà del Manchester City. C'è anche la Serie B in corso, vi do subito i parziali, poi però apriamo la parentesi del rugby, perché anche qui, insomma, al di là delle partite di Coppa, di Heineken Cup in programma oggi, ci sono temi importanti da trattare e lo faremo tra pochissimo. Parziali in Serie B: Ancona Albino Leffe 1-0, Brescia 2, Pisa 0, Empoli Avellino 1-1, Modena Triestina 0-0, Parma Sassuolo 0-0, così come Piacenza Vicenza, Rimini 1, Cittadella 0, Salernitana 2, Mantova 0, Treviso 0, Bari 1, ieri Livorno ha battuto l'Ascoli 1-0, questi parziali in divenire naturalmente prima della fine del programma. Vi darò finali e classifica. Adesso è il momento di far rimbalzare la palla ovale. Palla ovale. Giacomo Bagnasco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Cosa succede sui campi di Heineken? I campi di Heineken non cambiano le cose per quanto riguarda le italiane. Per dire la verità, il Calvisano si è battuto contro il Biarritz, giocava in casa la squadra bresciana e ha perso 23-15 dopo aver concluso il primo tempo sul 12-9, una partita non bella, due squadre che erano fuori dai giochi, comunque un Calvisano che non esce certo umiliato da questo confronto. Va molto peggio al Benetton Treviso, che alla fine del primo tempo a Leicester contro le Tigri di Castro Giovanni sta perdendo addirittura 40-0. In compenso, come al solito, c'è la conferma del doppio binario delle italiane nelle coppe europee, perché in Challenge Cup invece, che è quella che equivale un po' alla Coppa UEFA del rugby, il Rovigo, il Femicizeta Rovigo, ieri ha perso dal Dax in Francia 22-20, il Petrarca, Carrera Petrarca Padova in casa ha battuto il Bourgoin, i francesi del Bourgoin 25-24, e l'Overmac Parma, che giocava a sua volta in casa su un terreno infame, a quanto ci hanno detto, che trattato in qualche modo addirittura con la segatura, è riuscito comunque a vincere bene, a vincere largo come era previsto, 29-0 sugli spagnoli del Salvador. Domani, per concludere, il Montepaschi Viadana gioca in Inghilterra contro i Saracens. Insomma, italiane decisamente meglio dell'anno scorso in Challenge, mentre in Heineken continuano i pianti. Speriamo di piangere ancora per poco, speriamo che arrivi e arriverà l'era della Celtic League, per cui io continuo a fare il tifo. Io saluto e ringrazio invece Carlo Orlandi, braccio destro di Nick Mallet nella nazionale italiana. Buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio a voi, grazie. Poi parliamo anche di Heineken, di Coppe eventualmente, però prima la nazionale. È stata la settimana, come gli ascoltatori sapranno e se non lo sanno glielo raccontiamo, delle convocazioni dei 30 convocati per il listone per il 6 nazioni. Inutile nascondere che se nel calcio l'uomo del momento è Kakà, nel rugby è lo Cicero che ha avuto questa polemica, escluso dal listone, come assolutamente legittimo da parte del CT Nick Mallet, si è arrabbiato lo Cicero, l'ha detto a tutti i giornali. Carlo. Beh, diciamo che posso capire in parte Andrea Lo Cicero, perché è un ragazzo che ha fatto parte e fa parte tuttora della nazionale, e dunque poteva esserci una telefonata da parte del manager per spiegare che in questa prima parte si provano altri giocatori nel suo ruolo. D'altra parte, io non, caratterialmente non mi piace parlare con i giornalisti, avrei parlato certo, con i diretti autori, esatto, però insomma c'è chi affronta in un modo un problema e chi affronta nell'altro, lui piace un po' di più la pubblicità. Giacomo? Beh sì, non avrei niente da aggiungere, in effetti Carlo ha detto le ragioni che poteva avere lo Cicero, che si sarebbe aspettato una comunicazione preventiva. D'altronde in questo momento direi che anche dal punto di vista tecnico questa decisione, con tutto il rispetto per lo Cicero che con Mauro Bergamasco era uno dei due superstiti del primo Sei Nazioni Azzurro, un Sei Nazioni in cui qualche scampolo di partita giocò ancora anche Carlo Orlandi, il nostro interlocutore di oggi. Ecco, dicevo, con tutto il rispetto per lo Cicero, in questo momento i quattro piloni convocati, vale a dire Aghero, Nieto, Castrogiovanni e Perugini, danno effettivamente ampie garanzie. Certo. Tre di loro sono più giovani di lo Cicero, vale a dire Aghero, Castrogiovanni e Perugini. Nieto un anno in più, ma sta giocando alla grande nel Gloucester, giocano nel massimo campionato o francese o inglese. Probabilmente lo Cicero, oltre all'età, va verso i 33, paga anche il fatto di giocare in una Serie B francese, sempre Francia è, ma chiaramente il livello è inferiore. Carlo, invece il problema mi sembra, al di là delle esternazioni di lo Cicero di questo caso, il problema vero mi sembra quello di quella benedetta, maledetta maglietta numero 9. Maledetta, un 9 bisogna averlo. Un 9 bisogna trovarlo. No, beh, scherzi a parte. Abbiamo Canavosio che l'abbiamo spostato dall'ala e Viadana ci sta aiutando perché l'ha preso come primo mediano di mischia. Ha delle caratteristiche, specialmente fisiche, su un, diciamo, più vicina al mediano moderno. Sì. Abbiamo un giovane che dobbiamo fargli fare esperienza, che è Tognolatti. Sfortunatamente si è fatto male Travagli, che aveva presi e aveva difetti, però era un atleta, certo, di livello, però insomma ha avuto questo brutto infortunio alla spalla, speriamo che recuperi presto per lui. E dietro c'è un attimino un po' di differenza con i giocatori che possiamo avere. Speriamo che questi due giocatori resistino e facciano bene, perché hanno la possibilità, insomma, sì, di far bene. Sì, e poi soprattutto con questi infortuni non abbiamo, di Picone e Travagli, non abbiamo grandi alternative. Incomincia anche invece l'onda dei giovani aperta da Benvenuti, no? 18 anni, chiamato da voi, e insomma l'onda nuova sta cominciando. Ma noi diamo una possibilità a questi ragazzi qua, perché insieme a lui c'è anche un Favaro che anche lui è giovanissimo, è uscito l'anno scorso Under 20, e anche ad altri. Loro devono capire, devono rendersi conto che è un livello altissimo questo, dunque avranno la possibilità di stare alcuni giorni, l'hanno già fatto quest'estate, ma avranno la possibilità di capire cosa vuol dire la regola di alto livello, dunque che dovranno lavorare tanto, che dovranno migliorarsi, e che però se un giocatore lavora e vuole arrivare con Nick Mallet e con la Federazione Italiana Rugby si può arrivare a fare un Sei Nazioni. Ecco, non dico quest'anno, sì, perché sì, indubbiamente è difficile, però anche però la prospettiva c'è. Però la prospettiva c'è, questa è importante. Non è troppo lontano, anzi per noi che siamo operatori il 2011 è dietro l'angolo, ecco. Certo. Un'ultima domanda da Giacomo Bagnasco per Carlo Orlandi. La curiosità in questa super lista di 30 giocatori che poi diventeranno comunque 24 in occasione delle partite, delle prime due partite, poi ci potranno essere delle novità dopo la settimana di sosta. Ecco, direi che il nome su cui si appunta molta curiosità anche è quello di Montoriol del Casinò Venezia. Di Montoriol, punto. E sì, volevo chiedere a Carlo che cosa, ecco, ha portato i selezionatori a scegliere anche questo ragazzo, quali sono un po' le sue caratteristiche. Ma la sua caratteristica principale è quella di essere un buon saltatore, molto bravo a gestire la touche e anche prendersi, proprio guadagnarsi la palla. È un giocatore abile, palla in mano, è un combattente e ha un grosso margine di miglioramento, perché a livello fisico è ancora un attimino deficitario. Dunque, uguale a due ragazzi più giovani che abbiamo detto prima, anche lui dovrà capire, se vuole far parte di questa squadra, che deve lavorare tanto, deve acquistare un po' di chili, di muscoli, per poter poi rivaleggiare questo livello, perché ce ne vogliono tanti, non basta mai muscoli. Grazie Carlo, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie anche a Giacomo Bagnasco, ci sentiamo sabato prossimo con Pallo Vale. Tra poco cominciamo a parlare di cacà anche con gli ascoltatori, che vedo già dagli sms ne hanno una gran voglia. 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Sentiremo le dichiarazioni di Berlusconi, le dichiarazioni di oggi di tutto il mondo del calcio, praticamente da Ranieri a Mourinho a Zenga, tutti quanti. sull'argomento e insomma ho una gran voglia di parlarne con voi soprattutto. Però prima di questo rimaniamo in cronaca, perché questa mattina c'è stato anche lo sci con la discesa, soprattutto la discesa libera di Wengen, che non è andata benissimo per noi. Dario Pupo, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Com'è andata? Non benissimo. Beh, dicevo. Io dico, l'immagine che più mi resterà di questa gara è soprattutto il pubblico, perché io non mi ricordo stagioni con così tanto pubblico. Va bene che è gennaio, il mese delle classiche, però c'era praticamente un versante della montagna che guardava verso la pista che era pieno di gente. Stadio naturale. Ed è un po' il simbolo forse di questo momento, perché la Svizzera in effetti sta vivendo un grandissimo momento. Come hai detto tu, non è andata benissimo, ma poteva andare meglio, perché Hell stava facendo veramente una grande gara. Poi in un punto in cui hanno sbagliato anche altri, però forse in uno dei punti più semplici, una compressione, si è fatto trovare arretrato e lì ha perso la possibilità forse di essere nei 5. Secondo me poteva anche avvicinare il podio. Oggi però è stata la giornata per appunto uno degli sciatori svizzeri, Didier Defagot, che non aveva mai vinto in discesa, non aveva neanche mai fatto podio. È stata la gara perfetta, è sceso sotto i 2.32, l'unico, ha battuto Body Miller che era imbattuto nelle ultime due gare a Wengen, terzo poi è salito un altro americano, Sullivan. Gara assolutamente spettacolare. Per gli italiani il migliore è stato Christoph Innerhofer, però in qualche modo c'è la conferma che la squadra italiana sta vivendo un buon momento anche senza Sulzenbacher. Poi basta vedere quello che è successo oggi al Funder Team, che alla fine si trova a essere intorno alla 20ª posizione con il suo miglior uomo. Quindi direi che tutto sommato abbastanza buona come gara. Certo, poteva andare meglio, soprattutto per Peter Phil, che aveva ottenuto il secondo posto ieri nella super combinata e oggi si è piazzato in nona posizione. Sul fronte femminile, mentre sempre dagli sport del ghiaccio, arriva una notizione che è quella di una sconfitta di Armin Zögler con lo slittino dopo 19 podi, stavolta sta giù, ma questa è una notizia vera. Insomma, Coppa è vicinissima ad Armin Zögler, il numero uno dello slittino mondiale. Però oggi perde, mentre per chiudere la parentesi sciistica, super combinata delle donne, ottava Merighetti, vince la Von. Che gara è stata, Dario? Una gara per le specialiste, che sono poi anche le più forti di Coppa del Mondo. Insomma, Linza e Von, appunto, le varie Persson, Risch, sono quelle che sono più complete, che vanno forte su tutti i fronti, e quindi è normale che poi siano loro a fare la differenza. Tra l'altro, la gara di super combinata femminile è quella in cui siamo più deboli in questo momento, proprio nel panorama dello sci alpino, perché non abbiamo un'autentica specialista. Brava la Merighetti, che aveva cominciato da slalomista, poi ha avuto un infortunio piuttosto serio, o comunque da discipline tecniche per essere più precisi, poi dopo ha dimostrato di avere del coraggio nel buttarsi in discesa, solo che poi ci sono state delle cadute che l'hanno anche un po' magari condizionata. È stata brava secondo me a ottenere il suo risultato. Io, per chiudere il discorso di sport invernali, volevo ricordare che oggi abbiamo sfiorato un podio in attesa delle gare di questo tardi pomeriggio stasera da Whistler Mountain, dove probabilmente arriverà qualche podio per lo sci di fondo. C'è stato De Lorenzi nel biathlon, che è arrivato quarto nella prima gara di stagione vinta da Björdalen, che si avvicina al record di vittorie in Coppa del Mondo di un altro sciatore, il più grande, anzi meglio dire, Ingemar Stenmark. Grazie Dario, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Dario Pupo. Dunque chiudiamo anche la parentesi degli sport invernali. Vi do una notizia di cronaca appena giunta. Sudafricano De Villiers su Volkswagen ha vinto la Dakar categoria auto, aggiudicandosi la 14ª e ultima tappa da Cordoba a Buenos Aires. Poi vi aggiorno sui risultati ancora in divenire della Serie B. Siamo a metà del secondo tempo, ancora 1 Albino Leffe 0, Brescia 2 Pisa 0, Empoli Avellino 1-1, ancora sullo 0-0 Modena Triestina e Piacenza Vicenza, mentre si sblocca Parma Sassuolo con il gol di Lucarelli su rigore al 16esimo del secondo tempo. Dunque Parma 1 Sassuolo 0. Poi Rimini 1, Cittadella 0, Salernitana 2, Mantova 0, il Bari sempre in vantaggio a Treviso 1-0. Adesso è il momento di cominciare ad affrontare la vicenda KK. 800240024, numero verde che vi dicevo. Adesso vi raccontiamo la giornata di oggi a partire dalle dichiarazioni del presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Io ho detto già il mio pensiero al signor Galliani. Peraltro devo dire che è chiaro che è un ragazzo che ha una carriera che non è per tutta la vita, ma una carriera limitata negli anni, che ha la prospettiva di andare ad avere un introito molto superiore a quello che prende e che noi non possiamo aumentare perché è già al massimo livello, quindi dovremmo aumentare a tutti i calciatori del Milan, il che francamente non è possibile proprio, no? Dunque, queste le parole molto chiare di Silvio Berlusconi. Questa sera 20:30 c'è Milan-Fiorentina, ci sono tifosi del Milan che stanno contestando davanti, come già era successo ieri, davanti alla sede rossonera di Via Turati, partita questa sera molto delicata. Kakà sarà in campo, non ci sarà con ogni probabilità Ronaldinho, che in settimana ha avuto l'influenza, giocherà dal primo minuto David Beckham, ma è chiaro che insomma che le vicende di questa partita non saranno propriamente quelle agonistiche. Sarà una serata molto strana quella di questa sera, e tutti gli occhi saranno su quella maglietta numero 22. Ovviamente della vicenda Kakà oggi hanno parlato un po' tutti e li sentiamo, a cominciare da Claudio Ranieri. Io credo che finché c'è gente che investe nel calcio, ben vengano, però l'importante è che non aprano poi buchi, insomma, che vengano a mettere dei soldi freschi, e questo è sempre il benvenuto. Da sportivo, da allenatore italiano, mi dispiacerebbe che Kakà andasse via, perché perderemmo un campione, un pallone d'oro, un giocatore stupendo, però non posso entrare dentro nelle problematiche di un'altra squadra, per cui sicuramente opereranno per il meglio il Milan. Temo per i miei? No, non, spero di no, insomma, non, ho visto che sono orientati su altri, insomma, per cui mi auguro che io non debba avere le preoccupazioni che potrebbe avere Ancelotti. Ufficiale, uscita in questo momento la notizia, non gioca Ronaldinho questa sera, Seedorf giocherà nel suo ruolo accanto appunto a Kakà. Ne ha parlato oggi anche, poi ne parliamo con calma, insomma, però in questa vicenda è importante essere chiari. Kakà non vorrebbe andare al Manchester City, lo ha già detto. C'è il Real Madrid dietro l'angolo, c'è anche chi dice che l'affare non si concluderà, Kakà Manchester City Milan, nonostante le pressioni forti del club rossonero sul giocatore, perché Kakà vorrebbe andare al Real Madrid in estate. Sono tutte cose che vedremo e capiremo, ma della vicenda ha parlato oggi anche José Mourinho. Io ho contratto qua, sono bene qua, se il presidente della società sono felice con me, non esiste un problema. Non parlo di se non esiste, per Kakà tutti sappiamo che c'è l'offerta là, in via Durati, è la loro decisione di Kakà, decisione di suo papà, suo procuratore. Kakà esiste, tutti gli altri sono storie. Ma io di me, ripeto, tutti sanno la mia situazione. Ho contratto fino al 2011, sono contento, faccio il mio lavoro, ho le mie ambizioni qua. Questo Mourinho, anche perché, come saprete, come avrete letto, il Manchester City punterebbe proprio sull'allenatore dell'Inter per il suo immediato futuro, per la stagione Ventura. Mourinho chiude così la porta. Io invece la apro agli ascoltatori, a partire da Alfredo, da Gallarate. Buongiorno. Sì, buonasera, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Premetto che io sono un tifoso milanista, ho sempre seguito il Milan, e però quello che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte penso che sia un pessimo segnale per tutto lo sport del calcio italiano a questi livelli. Il Milan si sta trasformando, a mio parere, non più in una squadra di calcio, ma in una squadra da circo dove si fanno degli scoop, tipo quello di Beckham. Sì. Che Beckham è un grandissimo campione, nessuno lo discute, ma non ha senso in una squadra che ha già degli equilibri e tutto mettere un giocatore per 3 mesi, è soltanto per fare dello spettacolo. E dei soldi. Dei soldi. E adesso per guadagnare dei soldi, io come tifoso mi sento turlupinato, perché si parla di valori, di giocatori, eccetera, tutto, valori sportivi, quando invece parliamo soltanto che qui c'è un affare colossale che fa il Milan. Ma io sono tifoso del Milan, certo. di una società che debba o non debba guadagnare. Poi, purtroppo, siccome Berlusconi ha sempre avuto delle grandi intuizioni anche calcistiche, è stato il primo a fare le cose di 22, e aveva ragione, per carità e tutto, Adesso con questo sistema le squadre di calcio si trasformeranno in una promozione di giocatori che poi verranno sempre, diciamo, ceduti a queste cifre. Sì. Pato è stato preso, ottimo acquisto, e dopo Kakà succederà con Pato. Guardi, Alfredo, le dico, è una sorta di inversione di tendenza, lo scrive oggi Alberto Costa, e poi ne parleremo con calma di quanto scrive nel suo fondo Alberto Costa oggi sul Corriere della Sera. Questa vicenda è comunque destinata, comunque vada a finire, a lasciare il segno, perché rappresenta una... Nell'immaginario collettivo, scrive Alberto Costa, l'immaginario collettivo rappresentava il Milan di Silvio Berlusconi, squadra irraggiungibile e inattaccabile. Comunque vada a finire questa vicenda, le cose non saranno più le stesse, perché stavolta è la proprietà che spinge affinché Kakà, aggiungo io, il più forte giocatore del mondo, a 26 anni, se ne vada. Marco da Pisa, poi Marco da Cuneo, poi ci fermiamo un attimo, poi naturalmente torniamo a parlare di questa storia. Marco. E ciao, buonasera, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Niente, un po' mi riallaccio anche al discorso che ha fatto il signore che ha parlato prima di me. Anch'io sono tifoso del Milan, insomma la notizia un po' mi dispiace, perché insomma se ne va via il più grosso giocatore del mondo. Però la cosa triste di tutto ciò è che insomma sembra quasi non parlare più di sport, ma bensì di un business che insomma... Praticamente i soldi hanno preso il posto di quello che è i valori sportivi. La cosa triste sarebbe un po' vedere come ci sia la corsa di questi signori che entrano nel mondo del calcio con tutti questi milioni di euro. Sì, bisogna capire anche da dove vengono, dove vanno, perché il Manchester City non è nemmeno una squadra in questo momento, esatto. È semplicemente un'entità con alle spalle una montagna di soldi di questi sheikhi. Esatto, di e questi la mia intenzione è che se Kakà farà questa scelta, beh sì, finirà la stagione di quest'anno e questa squadra penso non si qualificherà nemmeno per la Coppa UEFA. Un altro anno magari sì, potranno fare un altro paio di acquisti di giocatori, non di campioni ma di buoni giocatori, perché poi non penso che per tutti i campioni andranno a spendere queste cifre. Poi magari che succede? Non si qualificano nemmeno l'anno prossimo per la Champions League? No, ma è chiaro, io capisco le... Ma infatti Kakà non avrebbe una gran voglia di andare a Manchester City nonostante... 15 milioni di euro di ingaggio annuale, che sono una quantità di soldi che non riesco nemmeno ad immaginare. Però insomma, io penso che se dovesse lasciare il Milan e dovesse scegliere una destinazione, quella non sarebbe, dal punto di vista sportivo e agonistico per lui, che è il più forte giocatore del mondo, ripeto, il Manchester City. Io invece insomma penso che andrebbe con grande piacere al Real Madrid, magari, come si è più volte detto in questi anni. Marco da Cuneo. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo dire, io credo che l'affare, ovviamente, anche se con umori diversi, lo farebbero sia la società che può o potrebbe investire questi soldi, io non sono tifoso milanista, ma per rinforzare e ringiovanire la rota della formazione. Oppure potrebbe, secondo quella che sembra la nuova onda rossonera, il nuovo corso rossonero, potrebbe usare quei soldi per coprire i buchi di bilancio e per vivere un po' di stagioni nella tranquillità. Anche perché quest'anno non ha la Champions League, quindi gli mancano quelle entrate. E d'altra parte lo farebbe anche Kakà, economicamente parlando, probabilmente da calciatore professionalmente non sarebbe un gran passo in avanti. Però, lo potrebbe anche accettare se la società ne ha bisogno. La mia domanda però in realtà era un'altra. Io volevo chiedere, tecnicamente, visto che si leggono le quotazioni di giocatori, chiaramente oggi sono un po' bassate, però chi è che quantifica il valore di un giocatore? Non so, un passino della Fiorentina che è passato... Il mercato, Marco. Non so, mi sembra davvero difficile valutare con una cifra precisa il valore di un giocatore, ecco. Non esiste. No, ma infatti non esiste una cifra precisa, il valore lo fa il mercato. Ma sono spropositati, secondo me, i valori. Sono spropositati, però, ripeto, stiamo parlando comunque di... spropositati anche quelli, gli ingaggi degli attori del cinema, se è per quello, insomma, è la legge del mercato, insomma, è questa la legge del mercato e dunque... e dunque così succede, così funziona. Ovviamente ho anche un sacco di messaggi al 349-238-6666, come ad esempio questo. La cosa mi ricorda, stiamo parlando di Kakà naturalmente, torniamo a farlo, la cosa mi ricorda l'affare Zidane venduto dalla Juve al Real. Con quei soldi la Juve ha costruito una grandissima squadra, scrive Alfio. Secondo me è un po' diversa la questione da questo punto di vista, perché Zidane voleva lasciare Torino, voleva andare al Real Madrid. In questo caso Kakà non vuole lasciare il Milan, almeno per il momento, soprattutto non vuole lasciare il Milan per andare a una cosa, a un'entità tutto sommato astratta che si chiama Manchester City. Voglio farvi sentire qualche altra dichiarazione di oggi su questa vicenda, a partire da Spalletti. Quando tieni un calciatore così, poi lui come ti si pone nel contesto della squadra? Cioè, che contratto gli fai? Poi in base a che contratto fai a lui, a quegli altri del suo livello, come ti comporti? A caduta vai a ritoccarli tutti oppure gli racconti che questo è qualcosa di diverso e di intoccabile e allora di conseguenza invece di gestire diventi un gestito, perché poi lui ha priorità e ha più forza in tutte le situazioni che possono capitare in un contesto. Sono tutte valutazioni che poi nello spicciolo bisogna andare a fare. Questo era il pensiero di Spalletti. Naturalmente qui si tratta di, insomma, è sacrosanto quanto dice Spalletti, però stiamo parlando di quello che è secondo me il più forte giocatore del mondo e che gioca in un club che per sua stessa ammissione ambisce ad essere il più grande club del mondo, ammesso che tutto questo sia ancora vero e reale. Sentiamo anche Zenga. Se arriva una proposta del genere a un mio giocatore qua, lo porto io, a braccia. Cioè, me lo carico in spalla e glielo porto. Ah, ma no, sono cose che non... Come fai a commentare? Come fai a dire sì, fa bene, no, non fa bene... questo non si tocca, quello non si tocca. Cioè, stiamo parlando di cifre... Imbarazzanti, la classica proposta indecente. È evidente che se arriva un'offerta di quel tipo, Zenga lo porta a spalla il suo giocatore verso Manchester, verso dove volete voi, però stiamo parlando di Catania, naturalmente. Christian, Modena, buonasera. Sì, infatti Zenga non ha Kakà. Zenga non ha Kakà e soprattutto non allena il Milan. No, volevo dire, secondo me alla fine non si concluderà l'affare per volontà di Kakà. Se lui non vuole andare, il Milan secondo me non lo obbligherà. Vediamo. Lei dice? Sì. Milan non lo obbligherà, mi sembra che insomma, anche le parole di oggi di Berlusconi l'abbiano un po' messo con le spalle al muro. Insomma, il Milan spinge perché l'affare si realizzi, anche perché il treno passa adesso, poi non è detto. Ma... è chiaro che... ripeto, c'è anche chi sostiene, e sono ben informati, chi sostiene che adesso non ci sarà passaggio di Kakà al Manchester City, in attesa invece del passaggio di Kakà al Real Madrid a giugno. C'è anche chi dice questo. Non penso che Real Madrid, anzi sono certo che Real Madrid, che adesso affronterà la storia delle elezioni presidenziali dopo le dimissioni di Calderon, non penso che da Real Madrid possano arrivare quei soldi. Quindi è chiaro che il Milan vorrebbe saltare su quel treno inglese che passa adesso e poi probabilmente non passerà più. Marco Busto Arsizio, buonasera. Buonasera, io vabbè, sono milanista, ho visto il Milan della Stella, il Milan di Blissett, sì. Ho visto tutti i Milan. Li ha visti tutti, sì. Li ho visti tutti, però devo dire, ho stimato più quelli che questo. Perlomeno avevano il coraggio di essere semplicemente quello che erano, una squadra che faceva di tutto per fare quello che poteva. Il Milan ha la fortuna di avere degli uomini che non si possono vendere, o meglio, non si possono vendere. In questo caso la dirigenza Berlusconi ha finalmente dimostrato che è arrivata al capolinea. So che tutti dicevano il Milan senza Berlusconi, quello che ha fatto, perfetto. Io dico una cosa sola. Innanzitutto è sbagliatissimo come l'ha posta Berlusconi stesso la cosa, perché non è paragonabile alla storia di Shevchenko, perché è completamente certo, l'opposto. Certo. Sì, prima sì, cosa. Sì, Seconda certo. cosa, nemmeno... e molti sanno di chi parlo, Giusy Farina ha avuto il coraggio di vendere in quel momento Baresi alla Juventus e per arrivare a vedere dar via così Kakà a 26 anni. Io, guardi, le dico la verità, già avevo perso le speranze in generale sul Milan di questi ultimi tempi, Questo è una delle cose che veramente lasciano un'ombra indelebile perlomeno su questo Milan. Non sono drastico, la pensano l'importante, la stragrande maggioranza. Marco, l'importante sarebbe fare chiarezza, insomma. Ma la chiarezza spiegare... No, non c'è invece. Non c'è, l'importante sarebbe fare chiarezza e uscire e dire... Adesso la politica societaria è cambiata, adesso per noi contano altre cose, adesso dobbiamo sistemare il bilancio, adesso non abbiamo per i prossimi 2, 3, 4, 5 anni oppure mai più l'ambizione di essere il più grande club del mondo. E quindi questo sarebbe accettabile. Sarebbe accettabile dire rifacciamo la squadra, usiamo questi soldi per rifare la squadra, per puntare sui giovani, per una qualunque credibile politica societaria, insomma. L'importante sarebbe fare una chiarezza e non raccontare alla gente, fare chiarezza e non raccontare alla gente delle bugie, delle frottole, delle cose non vere. Marco Busto Arsizio, buonasera. Buonasera. Dica. Avevamo un altro ascoltatore in linea, non c'è più Marco Busto Arsizio, allora lo saluto e passo di nuovo alle voci per sentire altri flash di oggi, a cominciare da Delio Rossi. Se effettivamente l'offerta è quella, difficilmente si può rinunciare a un'offerta del genere, e penso che la situazione la può sbloccare solo il giocatore, nel senso che la società di fronte a una richiesta del genere penso che ci deve pensare non una volta ma più di una volta. E il problema è anche un altro: nel momento stesso che anche il ragazzo rinunciasse a questa opportunità, poi verrebbe fuori il discorso che se rimane, come rimane. Quindi penso che la può sbloccare solo il giocatore, che deve fare una sua scelta, dice se voglio rimanere al Milan oppure vado da un'altra parte. Quindi penso che la società non possa rifiutare un'offerta del genere. Questo era Delio Rossi. Adesso proviamo a capire come si sta sviluppando questa giornata. Dovrebbe essere in linea uno dei colleghi più informati al momento sulla vicenda Kaká, cioè Cristiano Ruiu. Buon pomeriggio Carlo, a tutti gli ascoltatori. Cosa è successo oggi? Cosa succederà questa sera sul fronte tifosi? Cosa succederà lunedì secondo te? Beh, oggi dunque non è successo nulla, e già questa è una bella notizia, perché in questi giorni è successo davvero di tutto. Kaká ieri sera sono diffuse alcune notizie secondo le quali non sarebbe stato nemmeno convocato per la partita di oggi, e addirittura sarebbe partito domani per Manchester. Notizie smentite dal sito ufficiale del Milan, così come sono state smentite le notizie diffuse da un'agenzia araba secondo le quali Kaká avrebbe già firmato col Manchester City. Nulla di tutto questo, si aspetta l'arrivo lunedì, come hai detto tu giustamente, dell'ingegner Bosco Leite, che è stato sempre, da quando, da Calciopoli in poi, quindi dal 2006 in poi, uno dei principali fautori dell'idea di portare via Kaká dal Milan. Suo padre, giustamente, dal suo punto di vista cerca di monetizzare il più possibile la carriera del figlio, e così come lui tutto l'entourage che lavora attorno a Kaká. Questo naturalmente non fa piacere ai tifosi del Milan, ma sarà lui l'uomo chiave della vicenda lunedì nell'incontro che avrà col Milan, e poi, se dovesse andare bene dal suo punto di vista, l'incontro con il Milan, con i dirigenti del City, ma a quel punto difficoltà non ce ne sono, visto che loro sono pronti a ricoprire Kaká di soldi. Questa volta però, a differenza delle altre, non è stato Bosco a essere contattato, a contattare i dirigenti di un'altra squadra, così come era stato con Real Madrid nel 2006, ma è stato il Milan ad accettare, perché anche se nessuno l'ha ancora ammesso, di fatto Milan ha accettato la proposta del City, altrimenti non avrebbe consentito al contatto tra il procuratore di Kaká e il club inglese, questa offerta colossale di 120 milioni. L'idea di accettarla nasce proprio dall'importanza straordinaria dell'offerta, senza precedenti nel mondo del calcio, credo con pochi precedenti anche nello sport, nel mondo dello sport professionistico in generale. Cristiano, in modo secco, secondo te lunedì Kaká va al Manchester City oppure non va al Manchester City, resta al Milan e a fine stagione va a Real Madrid, come sostiene qualcuno? Al momento la percentuale è 80% Kaká via e 20% Kaká che rimane. Credo che moltissimo, anche se siamo in un mondo, in un ambito in cui i soldi contano più di sentimenti, questo è chiaro, conterà la partita di stasera. Kaká si troverà di fronte un San Siro tutto pieno di affetto nei suoi confronti, pronto a riversargli tutto l'amore che gli ha riversato in questi anni, e poi siccome sarà lui a prendere la decisione finale, perché se fosse per il padre avrebbe già firmato, sarà lui invece a prendere la decisione finale. Io ti posso dire che in questi giorni Kaká non ne vuole sentire parlare del Manchester City, prima di aver contattato il padre. Hanno avuto un burrascoso colloquio telefonico l'altra notte, e anche perché lui è convinto che con quella cifra, a quella cifra, lui un posto lo possa trovare dove vuole, Real Madrid, al Chelsea, insomma non ha bisogno di 15 milioni del Manchester City, ne può prendere 13 o 14 a Madrid o a Londra, certo. E sicuramente sono piazze che lo attirano di più, che gli possono permettere di vincere la Champions League, il pallone d'oro, insomma di rimanere al top a livello mondiale. Il Manchester City no in questo momento, però sicuramente lui ci è rimasto molto male del fatto che per la prima volta il Milan non l'abbia considerato incedibile, anzi abbia di fatto accettato un'offerta per lui. Naturale. Grazie Cristiano, buon lavoro. Grazie a te. Daniele da Milano, buonasera. Sì, ciao Carlo. Ciao. Tutto bene? Senti, no, era semplicemente per, forse per andare un po' in controtendenza quanto a tutti i tifosi, che posso anche capire la loro contrarietà a questa cosa, ma ormai insomma lo sappiamo tutti, il calcio non è più quello di una volta, quello fatto di presidenti che si avvicinano al calcio per passione. Forse l'ultimo esempio potrebbe essere Moratti, che ha speso tanto denaro prima di formare la sua squadra, tanto investito, lo sceicco di casa nostra, sì. Ecco, ma in realtà come si fa a rifiutare un'offerta del genere? Le società sono, alla fine sono delle industrie, devono quadrare i bilanci, devono guadagnare. Va benissimo Daniele, l'importante però è dirlo, l'importante è dirlo, e non dire che cacca vuole andare via, non dire vogliamo essere il club più importante del mondo, perché il club più importante del mondo, se ha il più forte giocatore del mondo, rifiuta anche la proposta indecente e se lo tiene. Questa è la mia idea. L'importante, va bene tutto, ma l'importante è essere chiari, come peraltro scrive oggi Alberto Costa, perché è chiaro che di fronte a queste vicende, che sono anche appassionanti, sono anche divertenti, ammettiamolo, uno alla mattina va a cercare le penne di riferimento. Non a caso il primo giornale che ho aperto stamattina è stato il Corriere della Sera per leggere cosa scrive Alberto Costa, che chiude il suo fondo così. Silvio Berlusconi deve uscire allo scoperto una volta per tutte, chiarendo le ragioni per le quali non può più, oppure non vuole più, mantenere un Milan a certi livelli. È nel suo diritto innestare la retromarcia dopo aver fatto di quello rossonero il club più vincente del mondo, ma anche i tifosi hanno il diritto di sentirselo dire pubblicamente. Alberto Costa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao. Mi sembra questo il nocciolo della questione. Ma sì. Direi che è inutile girare intorno a tutta questa vicenda. Qui la situazione, almeno a mio modo di vedere, è chiarissima. C'è una società, in questo caso il Milan, che per quasi un quarto di secolo si era contraddistinta per la sua diversità, per la capacità di trattenere le sue bandiere, sfidando pure le ironie molte volte di noi della critica. È una società che era inattaccabile, il Milan comprava, i suoi giocatori erano inavvicinabili, pensate alle minacce di denuncia di Galliani nei confronti del Real Madrid. Adesso invece questa società, di fronte a una cifra effettivamente importante, come avete detto voi esagerata, ha deciso di invertire la rotta, di rinnegare tutta la sua politica dell'ultimo quarto di secolo e di cedere quindi il suo giocatore simbolo, quello che sarebbe diventato sicuramente la bandiera dei prossimi anni. Non dimentichiamoci che Kakà è giovanissimo, è qui dal 2003, che quindi oramai i tifosi e che più volte aveva dichiarato di voler, il suo sogno sarebbe stato quello di ereditare la fascia di capitano da Paolo Maldini. Certo. Direi che c'è poco da dire. Ripeto, Berlusconi ha tutto, è nel suo diritto decidere di fare quello che meglio crede del Milan, però non si può nascondere, insomma, perché adesso in questo momento gli insulti sono quasi tutti per chi governa il Milan, Galliani, Braida. Ma questi signori lavorano con quello che mette a disposizione la proprietà, e in questo caso la proprietà deve uscire allo scoperto, perché la verità è questa. Certo. Berlusconi con questi soldi vuole ripianare il bilancio del Milan e non tirare più fuori un euro per almeno 3-4 anni. Quindi non come pensa. Certo, ma quindi non come pensa qualcuno, qualche tifoso, usare questi soldi per rifondare la squadra. No, guarda, a me non risulta, e credo non risulti. Credo che la notizia sia veramente fondata. Il Milan utilizzerà questi soldi per ripianare il suo bilancio. Quanto poi a rifondare la squadra, ho letto molti commenti su questo tema. Il Milan incassa 100 milioni e quindi può comprare questo e quest'altro. come se fosse automatico che andare con dei soldi riesci a prendere poi quello che vuoi. Facciamo il nome di Benzema, visto che è un nome che è stato fatto. Certo, magari il Milan adesso, sapendo che il Milan ha 100 milioni in cassa, va a offrire 40 milioni per Benzema e magari se ne sente chiedere 70. Certo, certo. Non è così automatico che con dei soldi in cassa tu possa comprare quello che vuoi. E poi non dimentichiamo un altro particolare. Nel calcio di oggi i giocatori che fanno veramente la differenza, che spostano gli equilibri, quanti sono? Io non riesco a arrivare a 10. Esatto. Kaká è uno di questi. Esatto. I giocatori che... soltanto che Berlusconi deve avere il coraggio di dire il Milan torna a una dimensione più contenuta. Ogni anno, come fanno tra l'altro in maniera egregia altri club, tipo la Roma, sì, venderemo un giocatore, lavoreremo di fantasia, vedremo. Dire il problema è che questi 100 milioni, come ripeto, verranno utilizzati per ripianare il bilancio, perché l'azionista di maggioranza e alcuni dei suoi figli, una in particolare, appena hanno saputo che c'era questa possibilità dei 100, 110 milioni o 120 che dir si voglia, comunque sono l'equivalente di 200 miliardi di una volta, sì, ovviamente stanno facendo pressioni sul padre affinché questi soldi arrivino e non vengano poi toccati, insomma. Certo, il tutto è legittimo, come dice Alberto Costa in maniera sacrosanta, a patto di raccontare alla gente come stanno le cose. Io dico soltanto che bisogna essere chiari. Berlusconi non può ciurlare nel manico, a mio modo di vedere. Alberto, per chiudere... è stato sempre molto chiaro. Sì. Dal primo giorno in cui si è insediato il Milan, e io, ahimè, già all'epoca seguivo il Milan, sì. E questo la dice lunga sulla mia età, Berlusconi è sempre stato molto chiaro nell'illustrare i suoi progetti, quali che sarebbero stati i suoi obiettivi. Adesso stranamente non ha il coraggio di uscire allo scoperto e dire: cari tifosi, si fa retromarcia, vi ho fatto divertire, vi ho fatto vincere quanto nessun altro al mondo per 20 anni, adesso ho deciso di cambiare, di invertire la rotta. Ripeto, è nel suo sacrosanto diritto, certo. Però bisogna, non bisogna, come dire, rimanere dietro le quinte e mandare avanti allo sbaraglio gli altri, insomma. Naturalmente. Alberto, grazie, buon lavoro. Prego. Grazie ad Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera. Mi sembra tutto molto chiaro, almeno da parte nostra e da parte di Alberto Costa. Poi attendiamo chiarezza invece altrui. Luca da Cuneo e poi chiudiamo il programma. Buonasera Luca. Buonasera, grazie per l'opportunità. A lei, dica. Dunque, io sono in viaggio da Cuneo verso San Siro, sì? 40 anni, 24 abbonamenti consecutivi, un passato da ultra fino a qualche anno fa. Mi sto avvicinando allo stadio con un pezzo di cuore staccato, parliamoci chiaro. Sì. Io mi rendo conto che il calcio, come ha detto giustamente ieri Carlo Ancelotti, non è più quello di 20 anni fa. Però davvero diventa veramente difficile legarsi a dei colori, a una maglia, diventa veramente difficile, perché sì, poi dopo arriva lo sceicco di turno e ti porta via il giocatore più rappresentativo. Io personalmente ne ho 3 in mente di questo Milan attuale: Maldini, Gattuso e Kakà. Mi togli via uno di questi 3, perdi l'anima, no? Perdi un pezzo dell'anima. Sì. C'è anche chi dice che, insomma, i giocatori e allenatori possono anche andare mentre la maglia e i colori restano. C'è anche chi dice questo, però è evidente che io capisco il discorso del tifoso che va verso lo stadio e che sa che probabilmente è l'ultima volta che vede giocare Kakà con la maglia della sua squadra. Ripeto, tutto legittimo. L'importante è fare chiarezza sulle strategie future della società, su questo affare, sulla volontà delle parti, e quindi è il Milan che deve dire: noi vogliamo, di fronte a questa proposta indecente, cedere il nostro giocatore più forte, e da qui in avanti faremo così. E a quel punto sarebbe tutto, ripeto, assolutamente legittimo. Io voglio chiudere leggendovi molto rapidamente i risultati finali della 21esima di Serie B, perché è cronaca, dobbiamo darla. Ancona batte Albino Lecce 1-0, Brescia batte Pisa 4-0, Empoli-Avellino 1-1, Modena-Triestina 0-0, Parma-Sassuolo 1-1, Piacenza batte Vicenza 1-0, Rimini batte Cittadella 1-0, Salernitana batte Mantova 2-1, il Bari vince 2-0 a Treviso. In classifica Livorno 38, Bari 37, Brescia 35, Parma 34, Sassuolo ed Empoli 33 punti. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Ritorniamo domani dalle 17 alle 19. Buona serata a tutti.